Li accomuna il tema chiaramente dell'abitare, quello del, insomma, in generale delle, di come cambiano le città in questi anni. Chiaramente, appunto, quello, il primo libro su Airbnb era focalizzato più sul tema degli affitti brevi turistici, cioè sul boom di, appunto, della piattaforma, no, di Airbnb negli ultimi anni. Questo qui invece, l'ultimo, Abitare Stanca, è un po' più generale. Provo a tracciare la storia delle politiche abitative e urbanistiche in alcuni paesi in Occidente, legandola alla mia storia, alla mia biografia, alla storia della mia famiglia, per andare un po' origine, cioè diciamo al cuore del problema dell'abitare, che è quello della rendita e quindi la terra, e quindi ho fatto un excursus anche, no, a livello temporale molto molto ampio, per andare indietro e cercare le origini di questo modello economico estrattivista di cui, appunto, stiamo vedendo gli effetti oggi, che però ha origine molti anni fa, e al tempo stesso, diciamo, per tracciare l'origine delle narrazioni anche in cui siamo immersi oggi più che mai, perché insomma periodicamente queste narrazioni vengono restaurate, e quindi volevo un po' invece rimettere in discussione una serie di questioni che vengono sempre date per scontato e che diventano dei luoghi comuni, come insomma tutto il discorso che si fa intorno alla proprietà, presentata sempre come desiderabile, naturale, giusta e via dicendo. Per cui volevo, diciamo, mettere in prospettiva queste questioni. In un paese come l'Italia, in cui il mattone è sempre stato considerato il bene rifugio, però questa cosa ha anche poi spinto la politica a non occuparsi, ad esempio, dell'edilizia residenziale? Sì, ma in realtà sì, è interessante notare, secondo me, il fatto che, se viste dal punto di vista della proprietà, appunto della promozione della proprietà privata, in realtà le politiche abitative hanno avuto molto successo. Cioè, il tema è, appunto, quali politiche abitative. Cioè, le politiche abitative sono, come molte politiche pubbliche a partire dagli anni 80, sono diventate sussidiarie al mercato. Fondamentalmente in Italia, per esempio, si dice poco, ma anche perché non ci sono dati precisi. Faccio insomma un esempio: per la promozione della proprietà, e quindi per l'edilizia agevolata, quindi costruita per vendita, lo Stato ha speso 5 volte tanto quanto ha speso invece per le case popolari, cioè per l'edilizia residenziale pubblica. Questo, no, non emerge quasi mai. Si pensa, no, che ne so, i rapporti Istat ci dicono che gli italiani hanno mostrato una propensione all'acquisto della casa, ma in realtà non è che si sono svegliati e hanno deciso tutti quanti insieme di diventare proprietari. Ci sono state delle politiche attive e molti fondi pubblici spesi per trasformare gli italiani in proprietari. Questo è successo, insomma, anche negli Stati Uniti e in America, e io indago un po' il perché si è deciso di trasformare tutti in proprietari, perché per rompere le lotte, fondamentalmente, nel momento in cui si stava ristrutturando l'economia, da un'economia industriale a un'economia invece fondata sempre più sul terziario e poi sempre più su, appunto, l'estrazione di ricchezza dai territori. E quindi, se messi, appunto, in questa prospettiva, come dire, c'è stata una scelta di sfavorire l'abitare in affitto, che era normale fino, appunto, agli anni 70, e invece di promuovere la proprietà. E quindi con questo, insomma, c'è stato, no, l'intenzione, questo è evidente soprattutto in Inghilterra, di frammentare la società, fondamentalmente di atomizzare, di individualizzare la società, e questo è quello che è avvenuto, e oggi noi viviamo le conseguenze di questo. Vista anche la contingenza, gli affitti alle stelle, il riesplodere degli affitti turistici dopo la pandemia, come dire, si inserisce comunque nel percorso che ci raccontavi poco fa. Sì, esatto. Oggi, come dire, siamo in una fase di totale insostenibilità di queste politiche abitative, che da una parte, appunto, quasi non ci sono più, e dall'altra continuano, appunto, l'unica cosa che si fa è continuare a promuovere la proprietà, in un momento in cui però il mondo del lavoro è cambiato profondamente. Cioè, questa cosa poteva reggere finché c'erano salari, insomma, dignitosi, ma oggi siamo in un punto di rottura di queste dinamiche, insomma, del rapporto tra lavoro e casa, e quindi, appunto, la casa è sempre più inaccessibile per fasce sempre più ampie della popolazione e quindi diventa sempre di più invece uno strumento di creazione di disuguaglianze, cioè chi ha ricchezza patrimoniale continuerà ad accumulare, invece chi non ce l'ha, chi campa appunto ancora dal lavoro, di fatto non riesce ad accedere più né alla proprietà né all'affitto, e questo appunto per esempio in una città come Bologna è sempre più evidente. Quindi insomma appunto poi ci mettiamo anche il tema degli affitti brevi turistici come strumento turismo, come strumento che rianima la rendita immobiliare, insomma che rianima questa economia appunto fondata sul mattone, che è un'economia appunto insostenibile che non funziona più, però viene appunto continuamente riportata in vita o dal turismo oppure da fondi pubblici anche attraverso il PNRR, e però insomma stiamo vedendo gli effetti dell'esclusione, no? di fasce sociali sempre più ampie, quindi la casa non è un problema che riguarda solo gli ultimi, no? Solo i poveri, ma riguarda sempre di più anche le nuove generazioni.